scusate, col teletrasporto ci siamo portati negli anni 70. Bellissimo veramente questo vinile, era Stephanie Miles. Sono quelle canzoni, insomma, che fa sempre piacere riascoltare, canzoni che un tempo veramente facevano un sacco di successo. Mi dicono che è salito sul ponte col teletrasporto, per l'appunto, insieme al sottoscritto, purtroppo, mentre ero nel pianeta anni 70, praticamente non mi sono accorto che alle mie spalle c'era un personaggio proprio degli anni 70 che è salito a bordo e niente, sta salendo sul ponte, voglio proprio vedere chi è che potrebbe essere. Vediamo un po' se è arrivato. Ci sei? Lo sai che lei è Pregon Tarocco? Tarocco? Che roba l'è? Ecco, il cane di Mustafà. No, dimmi. Il cane di Mustafà. Infatti, cosa chi fa? È? Il cane di Mustafà era quello che c'aveva nel culo. No, buono! Buono. Accidenti, ragazzi. È arrivato direttamente degli anni 70 il mitico ispettore Nico Girardi. Era lui, Ermonnezza. Il mitico ispettore Nico Girardi, con questa battuta insomma particolare. Va bene, ti saluto Nico, grazie per essere salito a bordo dell'Enterprise. Scusate, ma mi spostano ancora il microfono. Mi spostano di continuo sto microfono qua. Non ne posso. Allora, noi siamo qui. Non siete pronti? Non siamo sulle reti Mediaset, ragazzi. Va bene, avete riconosciuto, era Signorini. Praticamente pensano di essere nell'isola dei famosi, però ribadisco che questa non è l'isola dei famosi, è Star Trek Viaggio nella storia della musica. Io sono Andrea, come di consueto, al posto di comando insieme al capitano Kirk, a Spock, al dottor McCoy, eccetera, eccetera, tutta la sciurma, Sulu, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, non siamo sull'isola dei famosi, lo ribadisco ancora una volta, ma bensì siamo a bordo dell'astronave Enterprise e stiamo ascoltando, insomma, la musica più bella in questo viaggio musicale che non si sa dove ci porterà. Vi ricordo ancora una volta tutti i vari contatti per interagire con la trasmissione. Lo potete fare o tramite sito web, per l'appunto, che è il seguente: www.startrek.org, oppure lo potete fare anche con il mio bellissimo account Twitter. Dai, sto scherzando, l'account Twitter è chiocciolina De Mangia. Mi potete raggiungere o dal sito oppure direttamente da lì, dal nostro portale www.startrekonline.org. in questo sito trovate, insomma, un pochino la mia storia, il mio blog, come ascoltare la trasmissione e anche come ascoltare la mia piccola web radio, Radio Oltrepò Pavese. Sempre da lì potete accedere alla mia web radio. Abbiamo fatto pubblicità occulta a una piccola radio, ora andiamo avanti con la musica. Abbiamo un bel disco degli Inner Life. Let's Go Another Round, Inner Life, gran pezzo veramente. Siete sempre a bordo dell'astronave Enterprise in compagnia di Andrea. State ascoltando insomma la musica più bella del mondo proposta qua a Star Trek. Direi un'ottima alternativa ai reality, insomma ai programmi consoni della TV italiana. Magari, non so, spegnete la televisione, accendete il computer, accendete lo smartphone e ascoltate Star Trek, sempre se vi va. E ora invece parliamo di un grande protagonista della scena americana, cioè Marvin Gaye. All'anagrafe Marvin Petz Gay Jr., nato a Washington il 2 aprile del 1939, purtroppo scomparso a Los Angeles il 1 aprile del 1984. È stato un cantante, produttore discografico e arrangiatore statunitense, artista di spicco della musica soul e R&B. Ottenne la fama internazionale a cavallo tra gli anni 60 e 70 presso la celebre casa discografica Motown. Ancora oggi i suoi dischi sono molto richiesti sul mercato e influenzano anche le nuove generazioni grazie al suono fresco, sensuale, ma allo stesso tempo complesso e dotato di una profondità che richiede un ascolto prolungato per essere colta. Bella questa descrizione. A rendere l'artista ancora attuale contribuisce inoltre la forza dei suoi testi, intrisi di temi caldi inerenti alla politica, all'economia, all'ambiente, i conflitti internazionali e ovviamente l'amore. Per il suo impegno, le sue lotte contro il sistema e il forte richiamo alle radici della musica afroamericana, da sempre detentrice di una funzione di denuncia dei soprusi e delle ingiustizie, è considerato uno degli artisti più importanti della sua era. Potremmo definirlo anche lui un artista maledetto, perché insomma, una curiosità su Marvin Gaye, pensate un po', dopo alcuni anni di successo c'è stato anche purtroppo il declino. Ebbene, una curiosità, vediamo se la riesco a trovare, l'avevo letta precedentemente, comunque ve lo dico perché insomma, senza leggerlo, dopo all'incirca qualche disco di discreto successo verso la fine degli anni 70, purtroppo ha avuto il declino. Pensate che è andato a vivere nelle isole Hawaii, se ricordo bene, in un camper, quindi purtroppo è andato a vivere alle isole Hawaii in un camper. I successi sono stati tanti, che sicuramente meritano di essere ricordati, sono usciti anche un sacco di compilation, di CD e così via. Gli album, diciamo così, che personalmente apprezzo molto sono quelli che vanno dal 1979 al 1900 pressappoco 85. Questi sono i miei gusti personali, diciamo così. Purtroppo Marvin Gaye poi è scomparso e, come ben si sa, insomma, rimane l'icona di questo grande artista che sicuramente ha fatto un'epoca e ancora oggi è decisamente molto molto influente soprattutto sulla scena musicale e anche ascoltatissimo dai giovani. Ora noi ascoltiamo l'ultima traccia che conclude Star Trek ed è un vinile uscito postumo dopo la sua morte negli anni 80. È uscito nel 1990 ed è intitolato My Last Change. Lui è Marvin Gaye. I think this is my last may I have this dance? This is my last chance to get close to you. If you only knew what I've been going through. I think this is my last chance. My last chance, chance. With me, and maybe you'll see what I feel. Really, really for you. Signore e signori, la voce struggente di Marvin Gaye era My Last Change, vinile uscito postumo dopo la sua morte. Sempre a proposito di Marvin Gaye, vi ricordo che nel 1981 si impose con forza con l'album What's Going On. Tale album provò che si poteva rompere gli schemi. Gaye, che all'inizio degli anni 60 era stato autore di alcuni testi per giovani artisti della Motown, dimostrò di poter scrivere e produrre i propri testi e la propria musica senza la necessità di passare attraverso il sistema discografico. Questi risultati avrebbero poi spinto la strada d'arte artisti della musica afroamericana con Stevie Wonder. Durante gli anni 70 e 80 Gaye produsse altri album di successo, tra i quali ricordiamo per l'appunto I Want You e la stessa Let's Get It On. Alcune hit come Let's Get It On, che nel 73 arrivò prima per due settimane al Billboard degli Stati Uniti. E poi uscì anche la sua Sexual Healing, canzone degli anni 80. La sua parabola artistica si conclude tragicamente il 1 aprile 1984, il giorno prima del suo 45esimo compleanno. Verrà infatti assassinato dal padre. E beh, quando si leggono di queste cose dispiace veramente tanto, perché la musica ha perso un altro grande, potrei definirlo guru, padre che lo assassinerà con un colpo di pistola. Pensate un po', il padre era un predicatore, Marvin Gaye Senior. Ecco qua, la rivista Rolling Stone lo inserisce al sesto posto nella lista dei 10 migliori cantanti di tutti i tempi e al 18esimo in quella dei 100 migliori artisti. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Grazie a tutti per essere rimasti con Andrea e con Star Trek. Noi ci ritroviamo prossimamente, a Dio piacendo, per un altro viaggio nella storia della musica, sempre qua. Grazie ancora, ci sentiamo prossimamente. Bye bye, ciao a tutti da Andrea, un abbraccio. Grazie ancora per aver ascoltato la trasmissione. Ciao.